1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci qua, cari italiani, debosciati di tutta Italia, unitevi! Forza! Dai! Dai, lo schema Allegri sempre vivo. Sono le 7:18 minuti, quasi 7:19 qui a Radio 24, immagino anche da voi, ed è il momento di leggere i giornali con voi, di ricordarvi il tema che affronteremo. Beh, certo, la fiducia ottenuta al Senato, il governo Renzi che comincia a fare i primi passi. Oggi avremo ospite Filippo Taddei, che è il responsabile economico del PD, per capire se questo libro dei sogni di Matteo Renzi, che qualcuno ha quantificato in 100 miliardi di euro, sia possibile mantenerlo. E poi avremo ospite Alessandro Sallusti, insieme a lui il direttore del giornale. Avremo ospite anche Francesco Campanella, un senatore del Movimento 5 Stelle, uno di quelli più chiacchierati, di cui si dice ma chissà se la rete lo sfiducerà. Intanto questo è il menù degli ospiti delle 8:15. Andiamo a leggere i quotidiani. In questo martedì 25 febbraio i titoli sono praticamente tutti declinati sulla fiducia ottenuta al Senato ieri in tardissima serata, ormai passata la mezzanotte, e quindi sul primo discorso di Renzi, che oggi, vi ricordo, dovrà ottenere la fiducia alla Camera dalle 10, ma lì i numeri sono davvero tranquilli. Subito taglio cuneo e debiti della pubblica amministrazione, questo è il titolo del Sole 24 Ore in prima pagina, mentre il Corriere della Sera: Renzi ottiene la fiducia, scelte radicali, La Repubblica, la sfida di Renzi, basta vecchia politica, La Stampa, scuola e fisco, le sfide di Renzi, Il Messaggero, tasse sul lavoro giù di 10 miliardi, Il Giornale, premier furfante, snobba i senatori, parla più di un'ora senza dire nulla, incassa il via libera con soli 169 voti e prepara lo scherzetto. Per il Fatto Quotidiano, Renzi sogna e promette, ma con quali soldi? Libero usa questa immagine di Renzi che si è preparato e si è presentato con la mano in tasca, no? Ha parlato in questo modo poco istituzionale al Senato, e il titolo di Libero è proprio questo, le mani in tasca, giocando sul fatto che secondo Libero vuol mettere le mani in tasca agli italiani. Renzi, ora niente più alibi, così titola l'Unità, mentre il Secolo XIX, Renzi, scelte radicali. Anche per Avvenire il titolo è questo, l'impegno di Renzi, fatti. Mentre il Manifesto mette la foto di Renzi e di Alfano, il replicante, l'aula del Senato come la replica di un talk show. Insomma, come dire, ha detto nulla di concreto, ma ha fatto tante promesse. Prima però di tuffarci in questa lettura dedicata soprattutto appunto a questo tema, io voglio partire da altre notizie. La prima è quella di cronaca terribile, di questo tassista, come abbiamo sentito in giornale radio, un tassista che è in fin di vita, Alfredo Famoso, in fin di vita per una banale lite con un pedone. Probabilmente la dinamica non si è fermato sulle strisce pedonali, è andato un po' lungo, c'era un signore con la compagna incinta di 8 mesi che portava, reduce dalla spesa, un fusto di bottiglie d'acqua, prima un colpo alla macchina perché non si è fermato, quando il tassista è sceso probabilmente lì un colpo, una bottigliata di bottiglie di plastica, ma insomma piena, e quindi un colpo alla testa, il tassista che cade, sbatte la testa, è in coma cerebrale, in fin di vita. L'ultima corsa del tassista Alfredo, in fin di vita per le botte di un pedone. A pagina 18 di Repubblica Piero Colaprico racconta, ma la notizia la trovate su tutti i giornali, non ci sono di mezzo giovani, teppisti, stranieri, ma uomini più che adulti. Non è successo in una periferia a rischio gang, ma in una zona centrale ricca. Eppure sono bastati pochi minuti di esasperazione per mandare in coma un tassista di 68 anni, per cambiare e per sempre, senza rimedio, molte vite. Mentre il tassista combatte all'ospedale in guardia tra la vita e la morte, i suoi familiari fanno sapere che ormai non c'è più niente da fare. In un altro ospedale entra per un malore una futura mamma, 36 anni, incinta all'ottavo mese. Si è agitata sia domenica sera, quando ha temuto di finire investita dal tassista, sia ieri, quando ha visto i poliziotti entrare nel suo appartamento nella bella via Plinio. Sono arrivati in forze per accompagnare in questura e poi a San Vittore in carcere il suo uomo, Davide Guglielmo Righi, 48 anni, il padre del nascituro, papà di altri due figli. Il suo mestiere è consulente informatico, goda di buona reputazione anche se ha un piccolo precedente per lesioni. È al momento sotto inchiesta per tentato omicidio. I fatti ancora da accertare. È domenica sera, quasi ora di cena, fine di una giornata di sole, quando una coppia sta per attraversare un territorio metropolitano sempre più spesso al centro di cronache e polemiche: le semplici strisce pedonali. La Toyota Prius bianca, radio taxi 8585, sigla Aquila 7, secondo varie ricostruzioni, non si ferma. Inchioda poco dopo, lo fa perché Righi è già riuscito a lanciare contro l'auto bianca le bottiglie di plastica di acqua minerale appena comprate. Un fatto è certo, lo specchietto retrovisore è rotto. Il tassista Alfredo Famoso, fratello di un altro tassista appena andato in pensione, e a sua volta prossimo pensionato, scende dall'auto. La compagna di Righi è spaventata, lui è inferocito, tanto che solleva ancora le bottiglie, le solleva sin dietro le spalle e, usandole a mo' di clava, di arma impropria, colpisce il tassista, che arretra, barcolla. Qualcuno sostiene che il tassista venga anche picchiato di nuovo, ma sembra più probabile che ad Alfredo Famoso cedano le gambe e il tassista vada a sbattere la testa contro lo spigolo della ruota di scorta di un SUV posteggiato lì accanto. È davvero, questa la cronaca, ovviamente, da ricostruire, il dato di fatto anche con i disegni su Repubblica, come un diverbio per una precedenza non data, per le strisce pedonali. Come titola il Corriere della Sera, picchiato per una lite sulle strisce, in coma, pagina 21, il tassista aggredito dopo una frenata lunga, il fermato dice: ora mi dispiace. All'inizio ha negato tutto, poi dopo un paio d'ore, fa sapere il Corriere della Sera, ha pianto, ha dirotto: sono dispiaciuto, ditemi che non morirà. Terribile, anche perché purtroppo, insomma, chiunque vada nelle città e giri nel traffico sa che ormai i litigi, per così, per futili motivi, poi futili, insomma, una precedenza, cose importanti, ma magari può finire lì anche con un vaffa e basta, oppure con un chiarimento, e invece purtroppo in questo caso è finita malissimo. Sempre prima di iniziare la carrellata di articoli dedicati alla politica, io voglio dare uno sguardo a quello che succede all'estero, paesi troppo dimenticati. In Venezuela sta succedendo, si è sull'orlo di una guerra civile, secondo alcuni sono da giorni proteste nei confronti del presidente Maduro, e ci sono molti articoli sui giornali, come ci sono molti articoli sui giornali della vicenda in Ucraina, dove Yanukovych, abbandonato in fretta e furia al potere, è in fuga, è braccato, come racconta Repubblica, l'inviato di Repubblica, un amante e una figlia segreta, la doppia vita del presidente. Racconta Repubblica, pagina 14, ci mancavano solo le navi da guerra della Marina russa, la rivelazione di una famiglia segreta con tanto di convivente figlia per completare il quadro classico del dittatore in fuga. Viktor Yanukovych, braccato dalla polizia, dai servizi segreti che fino a due giorni fa lavoravano per lui, è stato visto per l'ultima volta tra Balaclava e Sebastopoli, nella Crimea occidentale, dalle parti di quella che Tennyson definì Valle della Morte, esaltando l'eroismo britannico in un poema dedicato alla carica dei 600. Ma i riferimenti storici e letterali c'entrano poco in questa vicenda seguita minuto per minuto dagli ucraini divisi tra compassione e sete di vendetta. Il presidente è delegittimato a una scorta di 15 persone rimaste fedeli, ha staccato le schede di tutti i telefoni per non essere intercettato, ha tentato invano di raggiungere l'aeroporto vicino di Belbek, circondato da agenti adesso ostili. Impossibile per lui anche raggiungere il molo dove all'ancora il lussuoso yacht di famiglia che uno dei figli ha incautamente chiamato Bandido. si aggira insomma attorno alla base militare russa di stanza in Ucraina e questo scatena le voci su mezzi navali incaricati da Mosca per portarlo in salvo. Ma dove sia finito Yanukovych, intanto racconta Repubblica, fiorisce un po' la leggenda, o non solo la leggenda, viveva con una donna di 39 anni e con la figlia di lei che avrà circa 10 anni, aveva un amante, aveva una figlia segreta, sarebbe in una base navale, per alcuni altri sarebbe rifugiato in un convento. Come finisce in fretta il potere, tra l'altro racconta sempre Repubblica, lo trovate sui giornali, che ora l'Ucraina chiede soldi, ci servono 35 miliardi, è la stima secondo Repubblica, qualcuno dice 25 miliardi, comunque la questione dell'Ucraina, un paese che rischia ora il crack economico ed è un paese strategico, perché lo ricordiamo, 40.000 chilometri di tubi del gas, per esempio provenienti dalla Russia, passano per l'Ucraina, quindi è un paese di cui non possiamo far finta di niente, non ci interessa niente. Ci sono anche interessi strategici, commerciali, che riguardano l'Europa e l'Occidente. Tra l'altro, racconta il Corriere della Sera con Fabrizio Dragosei, l'ira di Mosca a Kiev, ammutinati e terroristi. Il Cremlino si prepara alle ritorsioni. Certo, a Mosca non hanno gradito questo cambio repentino di potere, con le proteste di piazza e poi l'arrivo e poi la fuga di Yanukovych, tanto che racconta il Corriere, parole di allarme e condanna di quello che viene definito come un colpo di Stato attuato da personaggi che fino a ieri giravano in piazza con passamontagna e Kalashnikov in mano. Dal Cremlino arrivano indicazioni su quello che la Russia potrebbe ora fare, non tanto minacce di interventi militari, quanto piuttosto ricorso ai soliti sistemi, quelli del passato, e che hanno dato frutti sperati, perché l'Ucraina continua a dipendere pesantemente dagli aiuti del potente vicino. E dunque la possibilità di chiudere i rubinetti economici da parte della Russia, ecco, si può leggere anche così il fatto che l'Ucraina già si rivolga all'Occidente dicendo: attenzione, ci servono 35 miliardi di dollari, perché altrimenti, o di euro, perché altrimenti rischiamo di finire al collasso. E allora, dopo la pubblicità, noi ripartiamo da che cosa? Qualcuno l'ha definito il libro dei sogni, quello di Renzi, l'ha quantificato in 100 miliardi di euro le cose da fare e promesse. Qualcuno l'ha definito invece un gran discorso sfrontato nei confronti di un Parlamento e un Senato, meglio, di parrucconi. Ale che sono il Gabibo, anch'io seguo la rassegna stampa di Alessandro Milan. Oh, sempre l'ascolto, eh. Grandissimo, grandissimo il Gabibbo, vi rendete conto? Alle 7.35, allora cari italiani, vi è piaciuto il discorso di Matteo Renzi, che ha ottenuto la fiducia con 169 voti al Senato? Beh, è un discorso, tutti i giornali fanno notare, ovviamente sono pieni di articoli, come succede quando nasce un governo, le fiducie, si va a raccontare anche il dettaglio fin nei minimi particolari per le prime 10-15 pagine di ogni giornale, come racconta Gian Antonio Stella. Racconta, è un discorso che è stato un discorso sfrontato per certi versi, il rituale assolutamente ha rotto qualsiasi tipo di etichetta, no? Questo Matteo Renzi che si è presentato, addirittura ha parlato per lunghi tratti con una mano in tasca. Ah, non si può vedere una cosa del genere al Senato. Non vorrei iniziare con una citazione colta, racconta così Gian Antonio Stella il resoconto della giornata di ieri. Oddio, Kierkegaard, Sommerfeld, Schopenhauer, no, della pur bravissima Gigliola Cinquetti. Sai che importa, Matteo Renzi, delle ironie sulla sua citazione colta? Mica è venuto a parlare ai senatori, quelli devono solo, o quasi, votargli la fiducia. Fine. Ma lui è al paese che parla, alla gente davanti ai televisori, al pubblico della diretta, della radio, dei telegiornali. Non peraltro, rompendo una tradizione consolidata, si rifiuta di mettere il discorso per iscritto, dettaglio che obbligherà il presidente del Senato Grasso a sospendere la seduta per un tempo interminabile, in modo da consentire ai dimafonisti di sbobinare e trascrivere l'intervento, così che il premier possa portarlo alla Camera. Da seguire senza ingessature, ha pochi appunti, meglio una chiacchierata a braccio per segnare anche lì lo stacco con le tradizioni, i riti, le forme inamidate, le spagnolesche cortesie, uffa! Ma certo esordisce col doveroso salamelecco. Signor Presidente del Senato, gentili senatrici, onorevoli senatori, ci avviciniamo a voi in punta di piedi, con rispetto profondo, 2 minuti però. Poi, dopo aver sottolineato il vecchiume con cui ha a che fare, riflettevo stamattina sul fatto che io non ho l'età per sedere nel Senato, e aver gettato sale con un linguaggio di franchezza al limite della brutalità sulle ferite d'Italia, definito un paese arrugginito, impantanato, incatenato da una burocrazia asfissiante. Ecco, dopo tutto questo va dritto a prendere di petto gli interlocutori. Comunico fin dall'inizio che vorrei essere l'ultimo presidente del Consiglio a chiedere la fiducia a quest'Aula. Al che Roberto Calderoli risponde così: chi è? Tocchiamoci le palle. E vabbè, e questo è l'inizio del resoconto di Gian Antonio Stella, insomma, per raccontare, come scrivono tutti i giornali, un Matteo Renzi che si è presentato in maniera molto fresca, dirà qualcuno, un alieno con le mani in tasca. Matteo rompe l'etichetta del Senato, prima pagina di Repubblica, e poi continua a pagina 4 Sebastiano Messina. Vi divertirete sempre di più. Tra l'altro poi racconta di questa telefonata con Obama, che raccontano ovviamente, così è stato riferito, nessuno era al telefono a intercettare Renzi e Obama, neppure Obama, pensate. E ha detto Renzi: io ho il vantaggio di essere giovane, ho solo 39 anni, e Barack Obama gli ha risposto, così narrano, quando io avevo la tua età non mi conosceva ancora nessuno. Sta di fatto che, al di là di questo, racconta Maria Teresa Melli a pagina 5 sul Corriere della Sera, l'articolo si intitola "Le maggioranze variabili del leader, ma la vera insidia oggi è nel suo PD". All'interno del suo stesso partito Matteo Renzi deve scoprire la vera opposizione. Per la verità, scrive il Corriere, fino a ieri limitata a qualche dichiarazione come di quel che resta dei bersaniali, Miguel Gotor, che dice voterò la fiducia solo per disciplina di partito, oppure l'ex sindaco di Brescia Corsini, che dice non conosce la differenza tra una riunione di consiglio comunale e un'assemblea del Senato, o Corradino Mineo, civatiano, che dice è una fiducia la mia con data di scadenza incorporata. Sta di fatto che, fa sapere Maria Teresa Meli, per lui ha già trattato, per Renzi dice ho già trattato abbastanza con Alfano e alleati vari, ora è il momento di fare. A proposito di fare, ecco, qualcuno ha fatto i conti delle promesse fatte da Renzi. 100 miliardi, questa è la cifra che circola più o meno. Lavoro, riforme, abbattere il cuneo fiscale di 2 cifre, restituire totalmente i debiti della pubblica amministrazione alle imprese, fare i dirigenti statali solo a tempo, il modello 730 trasmesso già compilato, quindi una sburocratizzazione, una semplificazione, la riforma del Senato, il pacchetto organico sulla giustizia. Il Messaggero mette tutto questo a pagina 3, e anche il Sole 24 Ore, insomma, sotto il titolo "Ora lavoro e riforme, se fallisco è colpa mia". Per esempio il Sole si concentra anche su questo taglio a doppia cifra del cuneo fiscale a pagina 5. Davide Colombo e Marco Rogari: un taglio del cuneo fiscale contributivo da almeno 10 miliardi entro l'anno, con un intervento sull'IRAP per le imprese, sulle prime 2 aliquote IRPEF per i lavoratori, da coprire strutturalmente per 2/3 con la spending review, che già nel 2014 potrebbe assicurare 5 miliardi. L'altra fetta della dote necessaria potrebbe arrivare dall'uniformazione delle aliquote sostitutive sulle rendite finanziarie, anche dalla minore spesa per interessi garantita dall'effetto spread, che però dovrebbe essere in parte ipotecata dagli obblighi europei di riduzione del debito. E è chiaro, un libro dei sogni. Per il fatto è un po' così. Pagina 3, debiti di Stato, fisco e scuole, 100 miliardi di promesse. E anche Avvenire a pagina 7 mette i conti della Renzinomics. La Confartigianato: dai debiti della pubblica amministrazione al cuneo sono in ballo 100 miliardi. Queste sono le cifre. Viene intervistata dal Messaggero Marcella Panucci, il direttore generale di Confindustria, che riguardo a questa domanda fatta da Giusy Franzese, cioè non crede sia troppo vago il programma sulla riduzione del cuneo fiscale, per noi è importante, risponde che abbia parlato di riduzione a doppia cifra. Certo, bisogna capire cosa intende, sarà in termini assoluti o in percentuale, ovvero, tanto per fare un esempio, 10 miliardi o il 10%, e bisogna anche capire quale sarà la base di partenza, sempre per rimanere nel campo degli esempi. Per una riduzione del 10% sulle retribuzioni lorde ci vogliono 30 miliardi, se la si vuole fare invece sul costo del lavoro ci vogliono 45 miliardi, e sui tempi mi pare di capire che lo voglia fare presto, nelle prossime settimane. Insomma, fare presto, per Libero invece l'ironia è proprio sulle mani in tasca, con il titolo a pagina 3, le mani in tasca nostra, sotto il titoletto c'è l'articolo di Maurizio Belpietro, sono Renzi nostri. Altre battaglie che vuol fare Renzi, le vedremo tra poco, sono sulla burocrazia, le reazioni. Intanto voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Eccoci. Buongiorno, buongiorno Alessandro. Allora, come vai? Qualcosa ho già letto su, ovviamente, le reazioni, ampie reazioni e anche analisi di quello che è per qualcuno il libro dei sogni di Renzi, e poi? Sì, è un po', diciamo, un'agenda molto fitta, ecco, che raccontiamo molto dettagliatamente nelle prime pagine del Sole 24 Ore. C'è tutto questo calendario, no? Anche di attuazione di riforme, giustizia, fisco, insomma un sacco di lavoro da fare. Con quali soldi, lo dicevi tu un attimo fa, ecco, questo non l'abbiamo ben capito, però noi nel dubbio intanto ti proponiamo quattro pagine per spiegarti come vengono tassati i risparmi, per spiegare in genere come vengono tassati i risparmi, a cominciare dai bot, su cui c'è stata un po' di agitazione nelle ultime ore. Quindi come vengono prelevati e quali effetti avrebbe un ritocco della tassazione su, sì, questo, c'è uno speciale di quattro pagine. Su anche se il sottosegretario Delrio ha detto non ho mai detto di che c'è la volontà di tassare i bot. No, effettivamente vabbè, questo... ha detto vediamo, insomma ha fatto paragone, ha fatto questo esempio della signora anziana, però dice non ho mai detto. Noi giornalisti capiamo sempre male, quindi non da questo governo, ecco, quindi... Poi certe cose, diciamo, si fanno e poi si dicono. Comunque. Tra l'altro, ecco, però se tu fossi interessato a tutt'altra prospettiva che non all'investimento dei bot, ti segnalo che ci sono un po' di risposte, di chiarimenti degli esperti sulla materia della pensione, cioè come passare dal lavoro alla pensione con le varie formule, contributi volontari, anticipi e quant'altro. Una piccola parte, perché poi altri chiarimenti sono sul nostro sito ilsole24ore.com. Questo lo volevo segnalare, è riportato nelle pagine di norme e tributi. E poi qua e là ti segnalo, allora, il contratto dei bancari è una trattativa molto complicata che interessa molte persone, ne parliamo anche oggi, ne scrive Cristina Casadei nelle pagine di Imprese e Territori. E poi ci sono queste prospettive di spendere meno per le telefonate, perché Zuckerberg è andato a dire che con le sue nuove acquisizioni, insomma, passerà anche lui alle chiamate vocali tipo Skype, insomma gratuite, ecco, per dirla in una parola sola. Certo. Vediamo se ci riesce, insomma lui i fondi ce li ha, non so se glieli vogliamo chiedere un po' a lui, che se vuole lui da solo sistemare i problemi dell'Ucraina, magari, no, basterebbe sì, fare da qui a là, ma anche per il cuneo fiscale, secondo me anche potrebbe. Anche non so se gli interessi, ma possiamo chiamarlo, no? Tanto vedo che le telefonate ormai sono un mezzo, sono a posto, WhatsApp se l'è comprata, quindi insomma potrebbe, esatto, potrebbe un mezzo ricorrente questo, da parte appunto anche del nuovo Presidente del Consiglio, e infatti pensavo fosse lui stamattina, invece no. Invece no. Impareggiabile Milan, sono Actarus, Goldrake, principe del pianeta Flit, ma quando sono sulla Terra sento sempre la sua rassegna stampa. Vabbè, Actarus dopo il Gabibbo Actarus, cosa devo aggiungere, cari italiani e cari ascoltatori? Allora, alle 7:47 minuti, c'è da dire che una delle battaglie che vuol fare Renzi, l'abbiamo detto da più giorni, è quella della burocrazia. La burocrazia, cambiare anche i capi di dicasteri, i capi di gabinetto, e tanto che oggi Lorenzo Salvia sul Corriere della Sera intervista l'ex capo di gabinetto Franco Massi, uno che viene definito parte dei quei della casta dei mandarini, dice: io mandarino dello Stato, c'è bisogno dei nostri consigli. Franco Massi è magistrato della Corte dei Conti, è segretario nazionale del segretario generale del CNEL e fa parte appunto di quell'insieme di persone che spesso sono ai vertici dei ministeri per aiutare dal punto di vista legislativo a fare le leggi. Mandarino io, casomai un arancio, vista la stazza, inizia così con ironia. E poi dice: ma guardi, io capisco che nel nostro paese i giuristi hanno la fama di antipatici, di rompiscatole, ma il rischio è che senza di noi anche le migliori intenzioni vadano a sbattere contro un muro. Beh, sembra un avvertimento, chiede Lorenzo Salvia del Corriere, sbattere contro un muro. Ma no, per carità, è la mia opinione personale, ma se il politico ha tutto il diritto di fissare gli obiettivi della sua azione, poi ci vogliono le persone giuste che lo aiutino a trovare la strada giusta dal punto di vista tecnico, altrimenti presi dall'ansia gettiamo il cuore oltre l'ostacolo e dopo 2 o 3 anni dobbiamo fare i conti con un pasticcio. Ricordo per esempio quando Palazzo Chigi stava riscrivendo le procedure contrattuali, l'obiettivo era spendere meno, il risultato però sarebbe stato l'opposto. Scrive il Corriere, almeno, dice Renzi, gli alti dirigenti hanno una responsabilità civile, penale e contabile, ma non c'è quella per il mancato raggiungimento degli obiettivi. Sbaglia. Fin dal 2001 ci sono i famosi OIV, organismi indipendenti di valutazione. I dirigenti sono giudicati sulla base della loro performance e in caso possono essere cacciati. Ma non è mai successo, chiede il Corriere. D'accordo, ma lo strumento c'è. Comincino ad usarlo e se non funziona lo possiamo cambiare. Qualcuno interpreterà questa intervista come appunto la resistenza oltranza della cosiddetta casta dei mandarini, che invece per voce di Franco Massi si difendono e dicono: noi aiutiamo i politici a fare bene le leggi. Riguardo alla reazione di ieri, chi ha reagito secondo Repubblica, o meglio secondo Libero, anzi scusate, e il giornale in maniera un po' controversa, almeno racconto di questi due giornali, è Silvio Berlusconi, che secondo Libero, addirittura Salvatore Dama, pagina 9, dice: non si può dire, ma raccontano di un Silvio Berlusconi favorevolmente colpito, addirittura quasi entusiasta del discorso di Matteo Renzi al Senato. È stato bravo ed è stato sfrontato parlando al paese e non a quei parrucconi del Senato. Beh, certo, lui il dente avvelenato ce l'ha dopo che è stato cacciato dal Senato dopo la condanna. Comunque un Silvio Berlusconi, secondo Libero, è entusiasta. Mentre per il giornale è più prudente, il Cavaliere resta scettico, Renzi è un bravo comunicatore, però è troppo vago. Comunque staremo a vedere. Vi segnalo di cronaca l'articolo che trovate un po' su tutti i giornali, il migliore secondo me è quello di Fiorenza Sarzanini, a pagina 19 del Corriere della Sera. Ci sono sviluppi sul caso Montepaschi, ve lo ricordate, Montepaschi Siena? Il titolo è di quelli che fa abbastanza arrabbiare: i soldi di Montepaschi nei paradisi di Vanuatu, Anguilla e Singapore. Scrive Sarzanini: hanno trasferito all'estero oltre 90 milioni di euro sottratti alle casse del Monte Paschi Siena. Soprattutto hanno speculato su fondi di una banca in difficoltà con l'esclusivo obiettivo di arricchirsi. È questa l'accusa gravissima che ha fatto scattare nuovi provvedimenti cautelari contro la banda del 5% guidata, secondo i pubblici ministeri, dal ex capo dell'area finanza di Monte Paschi, Gianluca Baldassarri. Avrebbero messo in piedi un'associazione a delinquere capace di drenare soldi e occultarli su conti correnti aperti nei paradisi fiscali di Vanuatu, Anguilla e Singapore. Sono i documenti contabili a dimostrare il percorso dei soldi, ma la conferma del sistema illecito arriva da una donna disponibile a raccontare agli inquirenti quel meccanismo utilizzato per anni da manager infedeli. Questo è il nuovo fronte dunque che si apre, 11 indagati, tra questi anche la donna che ha confermato, racconta il Corriere, il meccanismo usato per anni fare questa associazione a delinquere. Questa è l'accusa: capace di drenare soldi dalla banca, 90 milioni di euro, e occultarli su conti correnti in paradisi fiscali. Evviva! Evviva! Allora, siamo al momento conclusivo, al momento dell'articolo più inutile scovato sui giornali. E oggi, guardate che i resoconti del discorso di Renzi qualcosa si poteva anche raccontare e prendere. Ma questo batte tutti su Libero, un quarto di pagina, pagina 11. Ma no, mi toccano Peppa Pig. Io poi come faccio a dirlo ai miei figli? Nasce la lista Peppa Pig per difendere la famiglia. Vi rendete conto? Alle elezioni provinciali di Barletta, Andria, Trani, la Bat provincia, sempre che non vengano cancellate le province. Siamo alla 43esima settimana decisiva per cancellare le province, ma finché non vengono cancellate alle prossime elezioni è nata l'associazione Comitato Progetto Uomo per difendere la famiglia con simbolo Peppa Pig alle elezioni, perché il nucleo familiare del cartone animato è composto da papà, mamma e due figli, senza coppie di fatto, senza relazioni gay. Così dice Mimmo Quatela, il fondatore del comitato. Voterete Peppa Pig a Barletta, Andrea Trani. Vi rendete conto? Uno va nell'urna e trova il simbolo. Toh, voto Peppa Pig. Mamma mia, la carta costa, ma non se ne accorgono, niente, non se ne accorgono.